Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Perché sei così sono arrivate tantissime mail. Ma non è vero. Per partecipare cosa? Al vero. Quiz di quante sono? Quante sono? Sono arrivate un sacco di mail. Allora, leggiamole. Allora, Pato da Milano ha scritto: sono 17. Mi dispiace, Pato. Sbagliato, sono di meno. Pato. Invece, Barbara, sempre da Milano, ha detto: sono 8. Mi dispiace, Barbara, sono di più. Pato e Barbara. Pato e Barbara. Quei due lì hanno scritto. No, anche altri, però mi sembravano i più rappresentativi. Comunque, quante sono? Attenzione perché c'è adesso il quiz va avanti, ma va, semplifichiamo un po' perché insomma non indovina Pato, non indovina Barbara. Semplifichiamo, però in realtà lo facciamo così, guarda. Allora, adesso... quante sono? Sì. Aspetta che non si... adesso. Ma è la pena. No, aspetta, adesso... no, beh... aspetta che niente, va bene. Aspetta, no, il quiz sta fallendo miseramente, capo, e tu ti stai... Adesso la domanda è parlare. Quante è? Questo è molto divertente. Pensa, capo, che a Rocchetta di Vara, in provincia di La Spezia, i bambini della scuola elementare frequentano anche delle lezioni di caccia, va bene? Di Matteo Caccia. Non di Matteo Caccia, proprio di caccia. Scusa, non riesco a compiendere di queste quante erano. Quante erano, adesso sono tutte nella bocca di Kappa. Va bene. Vai avanti tu. Allora, proprio mentre il ministro Bambina Brambilla si lancia in battaglie ecologiste contro la caccia, in Liguria si mandano i bambini vestiti di tutto punto con le cartucciere e tutte quelle cose lì, a caccia con dei maestri cacciatori. Nel bosco lì. Scusa, sono fortissime anche la mente e quindi continuo io. Vabbè, quindi praticamente quei bambini lì di Rocchetta di Vara, provincia di La Spezia, prima di andare a dormire ripassano le materie del giorno dopo e dicono: domani matematica, geografia, inglese e caccia. Hai capito? Io alla scuola svizzera mica avevamo Jagd come materia, non ce l'avevate, Jagd, no. Vabbè, ma ci credo, nemmeno nella mia italianissima scuola elementare, anzi, se non sbaglio, la maestra era anche contro la caccia, cioè io sono cresciuto in mezzo a tutti adulti che aborrivano la caccia, e credo che l'andazzo generale sia quello, non si educano di solito i bambini a un'attività cruente e pericolosa come la caccia, invece in questa valle della Liguria hanno il problema dei cinghiali. Eh sì, è per quello, per i cinghiali. Lì prosperano i cinghiali, cominciano a creare un po' di fastidi. Così il comune ha deciso che le prossime generazioni di rocchettesi sapranno come sparare un colpo tra gli occhi di un cinghiale senza tanti problemi. Bang, sì, e via. Bang, ma poveri cinghiali, scusa, anche loro hanno il diritto di farsi una vita. E lo so, ma in campagna hanno sensibilità diverse verso gli animali. Ma scusa, immagino una famiglia di cinghiali. Mamma cinghiale, papà cinghiale, i cinghialini. A strisce, bellissimo. Arrivano i bambini cacciatori e bang, bang, bang, bang, ammazzano tutta la famiglia. È una tragedia. Come fa il bambino Giovanardi? Perché sta zitto? Ma cosa c'entra adesso il bambino Giovanardi? Ma è lui il paladino della famiglia. Sì, però lui come credo fa? Che io credo che i cinghiali, il bambino Giovanardi preferisca esperirli sotto forma di pappardelle con sugo di, che è pur sempre un modo per avere a che fare con i cinghiali, sì. No? Buongiorno, sono un cinghiale, anzi il sugo di. Comunque, cosa succede a Rocchetta? Succede che i bambini arrivano in questo parco naturale in cui c'è un cinghiale lasciato libero, tutto organizzato, c'è questo solo cinghiale che in quest'area delimitata e i bambini dovranno sparare e ucciderlo con l'aiuto dei cani e dei cacciatori esperti. No, dissociamoci, io mi dissocio. Anch'io, capisco che da piccoli può sembrare forse una cosa divertente, però sai che addirittura queste lezioni di caccia vengono spacciate come amore per la natura, rispetto per gli equilibri naturali. Sai com'è che fanno i cacciatori, no? Sono sempre lì che cercano di convincere gli altri che loro sì che amano la natura, Sì, perché si mettono gli stivali di gomma e i vestiti camuflati e si svegliano alle 6 del mattino. E loro amano la natura in questo modo. E in questo caso sembra che i bambini esprimano amore per i cinghiali, no? Sparando, sì. Sì. Tipo Berlusconi che diceva di amare Gheddafi e poi... Più o meno. Chiedo asilo! Dai, allora, Gildo, fai partire la base che facciamo un po' di freestyling. Freestyling! E dai, Gildo, il freestyling, no? Volentierissimo! E allora, fai partire la base, fai la 7. Volentierissimo! Sì, ma la 7, ho capito volentierissimo, ma comunque la 7, no? Vai! E allora, e parte o no? Vai! È la 7, no? No, perché dopo se lo succede, Vai, la 7, vai! Miffia, miffia! Basta con la miffia! Ma come basta con la miffia? È tua mamma! Appunto! A Vabbè, ti offendi? Volentierissimo. Vabbè, non è mica il caso di offendersi, no? Fai conto che io sia un trovatore, no? Che esalta le virtù delle donne, no? Cioè, tu sai chi erano i trovatori? Gildo? I trovatori? Volentierissimo. Vabbè, ho capito, vai. Allora, dai con la sette che faccio un freestyling improvviso su un tema a caso che ancora non ho. Quindi, stavolta è una doppia improvvisazione, no? Dai, che sennò perdo l'ispirazione, muovi, Gildo. Allora. Volentierissimo. Mi raccomando, concentrazione, che facciamo un freestyling da paura, Vai, allora. Vai. La sette, quindi giusta. Il pomeriggio è lungo, quando arriva primavera, il sole non tramonta ed è chiaro fino a sera. Dopo che ho giocato tutto il giorno in casa mia, provo il desiderio di giocare in compagnia. Prendo la mia bici e pedalo più non posso. Schivo le vecchiette e non mi fermo neanche col rosso. Quando finalmente sono davanti a quel cancello, mi batte forte il cuore mentre suono il campanello. Gildo, Gildo, il mio amico straordinario, che mi importa se qualcuno ti chiama amico immaginario? Gildo, Gildo, tua madre è un gran pezzo di... cioè, voglio dire, tua madre è una gran donna, signora Milfia. Perché? E poi, quando andiamo, quando saremo... Allora, basta base, che non funziona! E riprendiamo, no, volentierissimo, fai la base giusta, che devo continuare. Gildo, Gildo, dicevo di tua madre, dicevo che era una nonna veramente speciale, soprattutto quando andiamo su a casa tua e Milfia ci prepara i panini con la Nutella e poi ci porta col piattino e noi siamo seduti sulle seggioline e noi siamo piccoli. Allora, stiamo arrivando al clou, al momento topico, tu sbagli la base! Qui era il momento topico, no? Vai! Vai con sta base! Dove ero rimasto? È che Milfia si chinava per darci i piattini con i panini con la Nutella, che noi siamo piccoli, lei si china, il vestitino estivo, a fiorellini, con i bottoncini, e quando si china giù in basso, io vedo il décolleté. Cosa c'è, K? Il momento è arrivato! Tito ha subito la trasformazione e adesso non è più il bassottino che conoscevamo. Adesso è un terribile esemplare di... Bassotto Geure Geure! Buono, Tito! Mi morde! Salta come impazzito! Fermatelo! Ma chi? Siamo solo io e te! Maledetto! Dobbiamo trovare il suo punto debole! No! È tutto inutile! Tra poco l'intero pianeta sarà invaso da una sterminata colonia di... Bassotti Geure Geure! Che cosa succederà adesso? Quali conseguenze avrà sulla vita della Terra l'invasione dei bassotti Geure Geure? Lo saprete solo sintonizzandovi lunedì alla stessa ora per le prossime imponderabili puntate di... Chiedo asilo!